Podete. Hey, AM Records. Podete. Oleven. Toka ni mpate, pate, pate, boy. Sitake ni mwache, ache, ache, boy. Nini kwangu taki, taki, take, boy. Kwangu wasi pate, pate, pate, boy. Na mbavyo tena nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani. Na mbavyo tena nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani. Kwa vitu matata mimi. Matata mimi. Nalifanya na data mimi. Nadata mimi. Vitu matata mimi. Matata mimi. Nalifanya na data mimi. Nadata mimi. Nafura, nafura, nafura, nafura. Mimi kwa na ye. Tamtam wana nipatia. Yendu wa peke. Don't bother. Mjue yuko na mi. Don't matter. Bile sioni wala sifiki. Don't bother. Kote mjue yuko na mi. Na mbavyo chana nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani. Na mbavyo chana nipana mimi. Anachofanya kasoro sioni. Akinishika hoi tabani. Ni mtoto wake kitandani. Nipewa vitu matata mimi. Matata mimi.